Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti per dare il via all'ultimo weekend del nostro soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera dal nostro immancabile comunicatore multimediale della nuova generazione, Francesco Tromba. Ciao a tutti. Allora, oggi finalmente possiamo celebrare il Soundchecker Play Music Award, i protagonisti di questa stagione di grande musica qui su Radio 24, musicisti, artisti e band che sono state messe in nomination dalla Academy del Soundchecker Play Music Award, ovvero un drappello di esperti di musica, giornalisti, scrittori, direttori artistici di etichette, di edizioni musicali, direttori musicali, insomma, diciamo, pure. Alcuni disc jockey, insomma, diciamo dei nomi importanti per rappresentare in qualche modo la musica in Italia. Allora, io direi intanto di introdurvi quello che sarà l'MC ufficiale dal Soundchecker Play Music Award di questa stagione. Ladies and gentlemen, please welcome the one and only Mr. Larry White. Larry? Yeah, excuse me, thank you for mangiare qualche noce per schiarire la voce. Ecco, bene, perché noi abbiamo scelto Larry White come MC di questo appuntamento speciale? Perché intanto è uno degli ospiti più apprezzati del nostro soundcheck, no? Uno dei più divertenti, sicuramente. Anche uno dei più divertenti, ma sarà la voce ufficiale del Soundchecker Play Music Award, perché lui è stato voce ufficiale anche dei Grammy Awards. Che cazzata terribile. In che stagioni, scusami Larry? 1969, è normale, 69. Certo. 1974, nel 74. 1983, sì, 83. And that's all. Basta, poi ti hanno cacciato, naturalmente, che è quello che faremo noi sicuramente. No, after I went from the Grammy Award to the Granny Award, I changed. No, il Granny Award è l'award delle bisnonne, praticamente. Ok, allora, siamo pronti, direi di partire con il repertorio in italiano, giusto? Sì. Allora, vediamo le nomination del repertorio. No, la busta no, perché il vincitore lo diciamo dopo. Diciamo in ordine sparso, quindi, chi sono stati gli artisti che hanno ricevuto la nomination. Partiamo. Domenico Imparato, Postura Libera. Bene. Serena Brancale, Galleggiare. Con l'album Galleggiare. Yes. Tosca, il suono della voce, è normale quello suono. Suono della voce. Non può vincere uno che dice così. Non è vero, non si sa, non lo possiamo sapere. Voci di corridoio speciale per Lelio. Eh sì, un bel disco swing dedicato a Lelio Luttazzi. E Joe Barbieri, che conosco personalmente, cosmonauta da appartamento. Allora io direi di aprire la busta e verificare il podio, subito, ecco. Non la devi strappare, Larry. Non devi strapparla. Larry, poi non leggi nulla. Allora, il podio, posizione numero 3. Per chi lo vince? Serena Brancale, Galleggiare. Allora, il gusto delle cose, Serena Brancale. Beh, un bel successo, eh? Eh sì, un gran successo alla fine. Bravissima lei. Bravissima. Allora, Serena, complimenti. Posizione numero 3 per te qui dal Soundchecker Play Music Award. Brancale con Galleggiare, questo era il gusto delle cose che rappresenta questo album nuovissimo per questo nuovo talento italiano, e si aggiudica il podio, posizione numero 3, quindi una medaglia di bronzo per Serena Brancale. Ma adesso con il nostro Larry White, mio caro Francesco Tromba, verifichiamo sempre sul podio la medaglia d'argento per l'airplay del repertorio in italiano, vediamo chi la vince. Vogliamo aprire la busta, per favore, Larry? Sì, con calma, perché se no apri. Non devi strapparla, Larry. Larry, chi si aggiudica la posizione numero due? Vediamo un po'. And the winner is Tosca. Tosca! Yeah. Il suono della voce. Il suono della voce. Ottima produzione italiana per Tosca, che conferma il suo grande talento. Eh sì, è un dubbio, assolutamente. Tra l'altro in tournée in Italia in questo periodo, quindi noi facciamo i complimenti a Tosca, perché il disco ci è piaciuto tanto e è piaciuto anche alla nostra Academy. Vogliamo ricordare chi sono i giurati che hanno espresso il loro voto nei confronti degli artisti in Airplay al Soundcheck? Sì, per dire, Vincenzo Martorella, che è direttore dell'editore Edizioni Arcana, direttore sì, editoriale. È naturalmente appassionato di musica, critico di jazz e di musica di qualità. Fabio Ciminiera, direttore di jazzconvention.net, giornalista musicale, anche lui critico. Autore di libri. Sì. Luigi Calivà. È morto. Sì. Sta benissimo e lo salutiamo pure. Grazie a Luigi Calivà per aver lavorato, perché abbiamo mandato le schede a tutti e quindi abbiamo rubato del tempo a questi amici. Bruno Santori, direttore d'orchestra. Zopka. Ernesto Assante, noto critico musicale di Repubblica. Soffre. Roberto Ramberti. Sì, producer, editore. Il DJ Alex Paletta e il DJ anche Prince Faster. Sì, Alex Paletta è anche producer di eccellenti programmi radiofonici, e Prince Faster è una delle voci più famose nel circuito romano underground per quel che riguarda la musica. E Carlo Mancini, grandissimo professionista della radio, direttore artistico per diverse radio italiane. Sì. Poi ci siamo io e te. E poi naturalmente anche noi abbiamo espresso il nostro giudizio. Diamo il via allora a Tosca, perché prende la medaglia d'argento per il Soundchecker Play Music Award, repertorio in italiano. Il brano bellissimo si intitola Via Etnea. È arrivata Nini, che profumo un bouquet, questa via etnea, che primavera Nini, fior d'arancio e caffè, vento e sale dal mare. Un gelato, una brioche, e passeggiando va. C'è un organetto che suona dietro un bar, è un tango Ninì. Soundcheck, il suono della musica. La matematica, il sentimento è una formula da decifrare, un conto da fare e rifare. La matematica, il sentimento è un codice da rivelare, la parola chiave che mi nasconde tu. E dai, ormai abbiamo ascoltato il brano. And the winner is, ladies and gentlemen. Dillo bene, proprio in americano puro. Chi vince? Ladies and gentlemen, the winner is Mr. Joe Barbieri, Cosmonaut Department. E vince Joe Barbieri. Complimenti a Joe Barbieri, che abbiamo qui ascoltato con la matematica di un sentimento. Vince il Soundchecker Play Music Award per il repertorio in italiano. Sono contentissimo, è un disco veramente stupendo secondo me. Bene, complimenti comunque a tutti gli artisti italiani che hanno regalato il loro sound al Soundcheck in questa stagione. Sì, perché questo è l'ultimo weekend, quindi domani, con la puntata di domani pomeriggio, dove scopriremo i migliori per la Black Music, e poi domani sera con il jazz in italiano, chiudiamo questa stagione 2014-2015 del Soundcheck. Finalmente si va in vacanza, no? Bene, no, tu vai in vacanza, guarda, la devi piantare, perché noi invece and continuiamo a lavorare. No, che winner is? Allora, Larry, adesso andiamo a scoprire una delle categorie più apprezzate del nostro Soundcheck, ovvero Best New Talent. Sì, perché abbiamo scovato dei talenti eccezionali, produzioni discografiche nuovissime che hanno lanciato il talento, infatti, di questi artisti che noi abbiamo scovato in molti casi anche attraverso internet con SoundCloud e Bandcamp. Sì, praticamente nel 90%, 80% dei casi li abbiamo trovati in questo modo. Allora, Larry White, per favore, citiamo la nomination. Le nomination. We have Jordan Riquet. Sì. Nubian Twist. Sì. Jared Lawson. Sì. Quabs. Sì. Emily Saunders, a Native Dancer. Benissimo, allora andiamo subito a verificare la posizione numero 3 per il Best New Talent Sound Checker Play. Apro la busta. Apri la busta. Piano, Larry. Tutta la sera strapperà tutto, ecco. Number 3. Quabs. Eccolo qui, Quabs, posizione numero 3 del Soundchecker Play Music Award Best New Talent, Perfect Ruin. How long can lovers stand to prove they were right? Why did I fold my hand? Why choose another fight? Soundcheck. Il suono della musica. L'album Outsiders Insiders regala a Emily Saunders la posizione numero 2 del Soundchecker Play Music Award per i Best New Talent, per questa cantante interprete inglese molto preparata che i nostri radioascoltatori e naturalmente l'Academy del Soundchecker Play Music Award ha reputato fra le migliori. È un po' una sorpresa, non me l'aspettavo questo secondo posto. Bene, ma andiamo a vedere chi prende la posizione numero 1. Larry, sì, attenzione, però ci vuole un po' di pathos qui, Guarda come la apre con attenzione, si vede che lo ha fatto per anni questo lavoro, sì. Lo ha fatto per i Grammy Award. Larry. And the winner is, ladies and gentlemen, for Best New Talent. Best New Talent winner. Di che cosa? Best New Talent winner. Sì, ma di cosa? Del Soundchecker Play Music Award, Larry. Exactly, that's why I'm here. Rifallo bene. The winner is for the Ladies and gentlemen, for the best new talent. Native Dancer. Native Dancer vincono la posizione numero uno, si aggiudicano la posizione numero uno come Best New Talent. Contento? Contentissimo. Eccoli qui, Native Dancer al Soundcheck con Love. Complimenti. She turns the tick to when it's time. One followed line. She strains her feet to catch the tide. It's moving close. Once we believe a cause is lost, our hope is gone. Mary, our senses in the one. She's almost there. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Di nuovo in contatto con il Groove Master Studio. Oggi praticamente siamo arrivati all'ultimo weekend per il nostro programma qui su Radio 24 e direi, caro Francesco Tromba, di riepilogare che cosa sta succedendo con il Soundchecker Play Music Award. Chi si è aggiudicato le prime categorie? Sì, allora, nel repertorio in italiano ha vinto Joe Barbieri con Cosmonauta d'appartamento. Invece in Best New Talent hanno vinto i Native Dancer da Londra. Allora, passiamo invece alla prossima categoria, che riguarda l'alternative, una categoria difficilissima, non si può praticamente, cioè è un album più bello dell'altro. Allora vediamo gli artisti con Larry White, il nostro MC, chi si è aggiudicato la nomination per questa categoria. The alternative nominations are Alan Hanton, The Punch Brothers. Con l'album, come si chiama l'album dei Punch Brothers? Phosphorescent Blues. Bene. Gotta get up to get down. Hayatus Coyote. Hayatus Coyote. Choose your weapon. Scegli tu la tua arma. Mm-hmm. Che è buono questo come. Laura Mvula. With the Metropole Orchestra. Sing to the Moon. Sing to the Moon. Yeah. Benissimo. Canta la luna come un lupo. E poi? Becca Stevens, Perfect Animal. Allora, apriamo la busta, vediamo che cosa viene fuori, vediamo il risultato. Larry, devi perdere tutto questo tempo. Allora, vediamo che cosa succede. Le prime tre posizioni. No, le prime tre. Vediamo. Partiamo. Che c'è un ex aequo, vedo. Yes. C'è un ex aequo. Allora, quindi seconda posizione per. Insieme per. Laura Mavula. Mm-hmm. With Metropole Orchestra Sing to the Moon. Sì, e poi. Okay. And then we have Hyannis Coyote. Choose your weapon. Allora, quindi c'è un ex aequo qui, eh? Choose your weapon. Quindi tocca suonarli tutti. Tocca suonarli tutti e due. Allora direi di partire con Lauren Vula. Complimenti a Lauren Vula, l'album è bellissimo, con la Metropole Orchestra. E direi di suonare allora il brano più rappresentativo del repertorio di questa giovane artista inglese. E quindi diamo il via a Green Garden per Lauren Vula, che vince la medaglia d'argento. Eh sì, secondo posto a pari merito con Hyannis Coyote. Soundcheck, il suono della musica. The phoenix, she dies, the wings are burning, she sings from the sky to the earth returning. Alala, alala. Prince, uno dei brani che troverete in Choose Your Weapon, l'album di Hyannis Coyote, che si aggiudicano in questa stagione 2014-2015 il Soundchecker Play Music Award, conquistando la posizione numero 2. E voglio chiedere al nostro Larry White se ha mai incontrato la vocalist Nay Palm, bravissima interprete di Hyannis Coyote. L'hai conosciuta? Tu che conosci tutti gli artisti? Certamente. Ah, l'hai incontrata? Sì, bene. Sì, che, sì. Mi racconti una cosa, come mai Nay Palm ha scelto per la sua band questo nome? Hyannis Coyote, cosa significa? Da dove viene? Significa che ho vissuto in una capanna i primi 3 anni della mia vita, nel linguaggio degli aborigini. Ah, significa? Sì. Sì. Mm. Ma questo chi? Nay Palm? Sì, sì. C'è padre, madre, aborigine, padre africano. Di Nay Palm? Non sì, mi sembra, dai sì, tratti no, somatici non mi sembra. Sì, sì, infatti no, sì, assolutamente no. Un bugiardo. Sai quei gridi che fa lei? Quelli sono i gridi di aborigini quando il padre faceva il cacciatore di canguri con i denti. Ah, non di coyote? No, no. Un animale che il padre cacciava con i denti, sì. Si metteva sopra l'albero, si buttava e lei ha cominciato a cantare così, capito? Imitando il padre. Ma come si fa a fare una cosa seria con quest'uomo? Spara solo cavolate. Ecco, intanto no, no, io io l'ho visto, c'è una fotografia. Eh sì. Ho fatto la foto. Vorrei anticipare, mio caro Larry White, che lo sai il premio quale sarà, no? Non lo sai ancora, per i vincitori, non solo la soddisfazione di aver caratterizzato l'airplay del nostro programma per tutta questa stagione, per questi artisti, naturalmente sarà fatta una comunicazione ufficiale a tutti, ma porteranno a casa anche una cena offerta dalla produzione del Soundcheck, quindi offerta dal sottoscritto e preparata nel miglior modo possibile da uno dei più importanti chef italiani e americani nel mondo, che è il mio amico Andy Luotto. Conosco, lo so che lo conosci, lo conosci molto bene. È una bella persona, no, tu mette sempre deodorante. Tu lo sapevi? Va bene, sì, sì, deodorante. Tu lo sapevi che vincevano questo premio? No. Lo devi comunicare a Andy Luotto. Pago io poco, ci dobbiamo mettere d'accordo, perché poi quando verrà per esempio la vincitrice di questa categoria che adesso annunceremo, dovrò offrire la cena a tutta la band e a tutto l'entourage, quindi ci dobbiamo mettere d'accordo con Andy Luotto. Quante persone? Direi, beh, saranno una 10-15 persone, diciamo che a 10 euro a testa si può fare, no? Tu lo fai, l'olio d'oliva lo porti tu. Va bene, allora ne parli tu con Andy Luotto, allora Larry, va bene? numero di telefono. Va bene, va bene. Allora andiamo ad aprire la busta per verificare la posizione numero uno della categoria Alternative, con quindi Lauren Bula e Yatos Keyote, che hanno preso già la seconda posizione. Vediamo chi vince. Apro la busta. Apriamo la busta. Gli piace tutto questo sforzo ad aprire la busta. Gli piace un sacco. Allora, ladies and gentlemen, and the winner is. Di che cosa? Alternative. Per che cosa? Alternative. Per la musica. No, per la musica. Alternativa anche per un motivo, che la vincitrice qui. Larry, non lo fai bene. Si metteva i pantaloni alla rovescia. Puoi dire in inglese: vince il premio di Alternative Music del Soundcheck and Airplay. And the winner is for Alternative Best Singer Soundcheck Airplay Music Academy Awards 2014-2015. Ladies and gentlemen, the winner is Miss Becca Stevens. Becca Stevens con la sua band. Ha vinto Becca, la mia preferita. Eh? Sì, tu l'hai votata sicuramente. No, io l'ho votata, però l'hanno votata anche gli altri, no? Sì. Tu l'hai votata? No, io ho votato Yatos Keyote. Yatos Keyote ha votato lui. Però ha vinto Becca Stevens con The Perfect Animal. Complimenti a Becca Stevens, che quindi si aggiudica questa splendida cena per la categoria. Naturalmente volevo dirti, Larry, devi ricordare a Andy Luotto che porterò a cena da lui tutti gli artisti delle varie categorie, quindi faremo una cena, non so quanti saranno, con tutti gli entourage musicisti. Bah, 20, 20 no, forse 5. Di più, anche 30-40. Se mangiamo pure noi, sì. Certo, no, 30-40, 10 euro a testa ce la possiamo fare. A casa tua. Beh, ci mettiamo d'accordo con Andy Luotto quando lo vediamo. Eccola qui, Becca Stevens con Perfect Animal, il brano è Higher Love. Think about it. Soundcheck, il suono della musica. Anche questa versione di Thinking About ce la troverete nel nuovo album di Becca Stevens Band, intitolato The Perfect Animal, che si è aggiudicato la posizione numero uno del Soundchecker Play Music Award di questa stagione, così come ha annunciato il nostro MC ufficiale Mr. Larry White. E siamo pronti per dare il via, per scoprire le nominations degli artisti del reparto International Jazz. Anche questa è una categoria molto importante. E anche qui dei gran bei dischi, devo dire, no? Beh, siamo pronti. Allora, Mr. Larry White, possiamo aprire la busta. And here are the nominations. Nominations for. The nominations, okay? We have. Di che cosa? Larry, devi dire. International Jazz for the Soundcheck Airplay Music Awards 1914-1915. Ladies and gentlemen, pay attention to 1949. 2014-2015. I'm back. I'm an old man. I'm getting old, you know. Sì, lo so che sei vecchio. Sei vecchio e idiota. 2014-2015. Okay, here are the nominations. Attenzione. Piano. Modisky, Scofield, Martin and Wood. The title of the album is Juice. Is Juice per John Scofield con Modisky, Martin and Wood. Bel disco, bel disco. Orange juice, mango juice, pineapple juice. We don't know. We don't know. Cause we don't know who the winner is. Non sappiamo che tipo di succo hanno celebrato. Okay. Va bene. Poi. Pat Metheny, Unity Group. The title of the album is Kin. Con Kin, Pat Metheny con Unity Group. Bene. Poi. Then we have Shaina Steele. Rise. Lord of Rise. Rise. Di Camin, fratello. Alza di Camin. Still bravissima. Didi Bridgewater, Didi's Feathers, le piume di Didi, perché pochi sanno che lei sotto la scella aveva le piume. Non i peli. No, le piume, che lei quando canta vola. La vola, ma è idiota. Marcus Miller, Aphrodisia. Aphrodisia, queste le cinque nomination per l'Academy del Soundchecker Play Music Award. Allora, andiamo a scoprire posizione numero, che cosa? La posizione numero 3. Apri la busta. Ah, questa è una tarantella proprio, Non sei... Larry, e distruggi tutto, okay. Poi non leggi nulla. Ok. Number three? Number three... Pat Metheny Unity Group. Allora, complimenti a Pat Metheny Unity Group. Questo è uno dei dischi preferiti per l'International Jazz da parte dell'Academy, del nostro Soundcheck e anche il pubblico che ha seguito con attenzione il nostro programma questa stagione. È stato molto votato dal pubblico Pat Metheny, eh? Eh sì, lo so. Pat Metheny, Keen. Soundcheck, il suono della musica. Wear them feathers till I'm dead. Hold on steady. Hold on steady. Hold on steady. E quindi si aggiudica la posizione numero 2 per International Jazz del Soundchecker Play Music Award 2014-2015, l'album Didi's Feathers di Didi Bridgewater, che ha regalato un tributo alla città di New Orleans con il formidabile trombettista direttore d'orchestra Irving Mayfield. Allora, siamo pronti? Fratello di Curtis Mayfield. No, non è il fratello di Curtis Mayfield. No. La fotografia. Va bene. Allora sarà pure il fratello di Curtis Mayfield. Io intanto vorrei ringraziare Mr. Larry White per la partecipazione, sei stato formidabile e spero di vederti anche domani, perché domani nella prima parte del Soundcheck dobbiamo celebrare la categoria più attesa, quella della Black Music, con R&B e Hip Hop. We like the R&B. We gonna need the R&B. That's what makes you funky. That's what makes you get up to get down. Ladies and gentlemen, you gotta get up. You gotta get it on the good foot. Can I count it off? 1, 2, 3, 4, get up! Ecco, torna sempre James Brown, eh? Sì, ma non c'è James Brown, parliamo di contemporary. He's dead, but he's alive. He's dead, but he's alive. Morto, ma quello vivo. Lui vive, il suo funk ancora si sente in tutto il mondo. Sì. Tu anche sul palcoscenico dell'Apollo. Lo faccio sfogare qualche minuto, poi andiamo, sull'Apollo Theater. Tu vai lì, tu senti la presenza. Sì. Tu senti ancora il funk di James Brown. Who is Godfather number one? Who is the king of soul? Who is the king on the good foot? Who Papa got a brand new bag? Who is that motherfucker? Who is that guy? Ladies and gentlemen, James Brown. Oh, ce l'abbiamo fatta. Apriamo la busta. Apriamo la busta. Attenzione, perché stiamo per scoprire chi vince l'International Jazz Airplay Music Award di quest'anno. Apriamo. Vabbè, poi pulisce. È idiota completa, certo. Guarda che ha combinato, guarda che c'è nello studio. Tutta la busta. Allora, fallo bene. Vince. Okay. Vince. The sound win, check. The win. The Sound Check Airplay Award for 2014-2015 for the International Jazz Section, ladies and gentlemen, is Mr. Shaina Steele with the album Rise. Shaina Steele con Rise vince l'Airplay, il Soundchecker Play Music Award per la categoria International Jazz, e le facciamo i complimenti. Comunque nel frattempo ha telefonato Andy Luotto, ha detto che 10 euro a testa non bastano e quindi mi sa che tocca riorganizzarsi, magari facciamo una braciolata. Sì, ma Larry White conosce molto bene Andy Luotto e sono sicuro che parlerà. Naturalmente anche il vino deve essere al livello di questi grandissimi artisti. Scusami Larry, eh? What vino? No, perché poi la differenza quando uno va a cena la fa il vino. Puro vino. E beh, il vino bisogna fare. L'olio d'oliva lo porti tu. L'olio d'oliva lo porto io dalla Puglia direttamente. Possiamo chiudere questo appuntamento. Naturalmente noi ci risentiamo domani, sempre alle 15.30, e domani scopriremo i vincitori del Soundchecker Play Music Award 2014-2015 per la categoria R&B. Grazie all'MC Rhythm Blues. Quindi chi ha vinto International Jazz? International Shaina Steele with the album Rise. Alza de Gamina. Eccola qui.